Amen. Amen. Alleluia. Ci accomodiamo, crea aspettativa, di' alla persona che ti sta a fianco: il Signore ha una parola per te oggi. Diglielo, diglielo ad alta voce, fatti sentire. Signore, ha una parola per te oggi. Spero che tu abbia preso già gli appunti, la dispensa del messaggio. Se ancora non l'hai fatto, puoi farlo, puoi alzarti ora. Ci sono due bidoncini neri ai lati, potete prendere il foglio guida che ci permetterà insieme di andare a studiare altri, quanti sono? Tre versi della parola di Dio. Quanto è prezioso poter studiare, analizzare, assimilare come delle spugne la parola di Dio. Amen? E vogliamo assimilarla insieme? Siete con me? Se sei con me, di' amen. Non è una brutta parola, significa così è, così sia. E quando diciamo amen, ci coinvolgiamo alle parole del predicatore e predichiamo insieme al predicatore. E quello che vogliamo fare è predicare insieme la verità. Amen? Ripeto, predichiamo insieme la parola, vero? Bene, bene. Ora vi stresserò per questa cosa, perché vi vedo troppo poco, che rispondete poco. Allora ve lo chiederò per tutta la durata del messaggio. Sei sveglio? Sì. Puoi dire anche amen a questo, perché significa comunque così è e così sia. Così lo dichiari anche per il tuo futuro. Sarò sveglio. Amen? Amen. Saremo svegli. Bene, leggiamo insieme. Guardatevi dai cani. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne, benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Dice l'apostolo Paolo. Questi versi dicono: guardatevi dai cani. Amen? Non dai cani, quelli a quattro zampe, gli animali, ma guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. L'apostolo Paolo sta parlando di operai che operano nelle chiese, nel regno di Dio, ma non fanno un buon lavoro, sono cattivi operai. Ci sono operai e operai, ci sono ministri e ministri, ci sono pastori e chi si nomina pastore, autotitola pastore e non è pastore. Ci sono buoni operai, buoni rappresentanti di Cristo e ci sono anche cattivi rappresentanti di Cristo. Nello scorso capitolo, non so se vi ricordate, ma proprio io ho portato un messaggio sui buoni rappresentanti di Cristo. L'apostolo Paolo presenta se stesso, presenta Timoteo e presenta anche, aiutatemi, Epafrodite. In prima fila ascoltano di più il messaggio della domenica. Qualcuno se lo ricorda anche nelle ultime file che c'era Epafrodito? C'è Epafrodito. Quindi l'apostolo Paolo, Timoteo, Epafrodito, Paolo presenta loro e si presenta come un buon operaio e presenta loro come dei buoni operai. E di questi buoni operai dice: prendeteli a stima. Seguite il loro esempio, sono buone persone, sono buoni uomini, prendeteli a modelli per le vostre vite, fatevi influenzare da loro. E abbiamo parlato degli influencer e ci siamo chiesti chi è che sta influenzando la nostra vita. È importante avere dei buoni influencer. I buoni influencer sono quegli buoni uomini di Dio, donne di Dio, esemplari nella loro condotta, che servono e in maniera sana il Signore e sono quindi dei buoni operai. Avete mai avuto a che fare con dei cattivi operai? Siamo tutti reduci di cattivi operai, no? Che inviti a casa un'impresa edile che ti deve fare un lavoro. Io ho trovato qualche foto, mia moglie mi ha aiutato in internet, ce le abbiamo tutti presenti queste foto di cattivi operai, persone che svolgono un mestiere ma lo svolgono male. Possiamo vedere la prima foto? Questa mi sa che è una pista ciclabile. c'è qualcuno che non ha considerato che c'è un guardrail, e quindi immaginate coloro che sono concentrati sulla striscia rossa. Segui la striscia rossa e la pista ciclabile, lì sarai al sicuro. E questi ciclisti vanno, guardrail, e si catapultano in quello che è un incidente sicuro. Vediamo un'altra foto di altri cattivi operai. C'è chi ha pensato bene di costruire prima la scala e poi la porta, ma non unire le due cose nello stesso punto, e quindi qui un cattivo operaio si aspetta che chi entra in casa entri dalla finestra. Ridicolo, no? Vediamo un'altra foto, e questa è più o meno analoga, no? Una scala a chioccia che però non corrisponde con le porte. Vediamo un'altra foto. Questo è tipico, cioè quando devi ristrutturare il bagno, no? E non ti preoccupare, c'ho un cugino. Avete mai sentito? C'ho un cugino. E di solito è un cugino che non ha lavoro per una ragione, ok? Quindi non vi fidate c'ho un cugino, perché il cugino poi può farti questi lavori. Oppure, ultima foto, metterti l'extension. Quando fai fare l'extension a tuo cugino, che è bravo e si prende poco. Quindi questi sono cattivi operai, e io vi presento queste foto per sdrammatizzare, perché i toni sono aspri, quelli dell'Apostolo Paolo. Non sta parlando solo di cattivi operai perché non fanno bene l'opera del ministero. Qui sta proprio dicendo che sono cattivi nel senso che svolgono il compito del ministero in una maniera malvagia, sbagliata al punto tale da deviare il popolo di Dio dalla retta via. E sapete che questo è così vero ancora oggi, non è stato vero solo 2000 anni fa. E per questo io sono contento che possiamo predicare e considerare queste parole, perché purtroppo è vero ancora oggi. La scorsa volta, quando abbiamo parlato di buoni rappresentanti, abbiamo visto un elenco di loro caratteristiche. Io voglio prendere le caratteristiche in modo particolare di Timoteo, ve le leggo, e possiamo mostrare la tabella di quelle che sono le caratteristiche, almeno tre caratteristiche esemplari di Timoteo. E in Filippesi 2, ve lo leggo io, dal versetto 20, l'Apostolo Paolo dice: non ho nessuno di animo pari al suo, sta parlando di Timoteo, non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, sinceramente a cuore quel che vi concerne. Un buon rappresentante di Dio, un buon ministro di Dio ha sinceramente a cuore la Chiesa, ha amore per la Chiesa. E poi aggiunge: poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Un buon ministro, un buon rappresentante di Dio non ha interessi personali, non sfoga quelli che sono i suoi bisogni, i suoi rammarici, attirando l'attenzione delle persone su quanto è bravo lui, eppure non ha un seguito, non è ascoltato. No, punta costantemente su Cristo, ha interesse per Cristo, che Cristo sia onorato attraverso di lui e anche attraverso altri. Vi ricordate che l'Apostolo Paolo dice addirittura: che importa se Cristo viene annunciato da persone che lo fanno per invidia nei miei confronti. L'importante è che Cristo sia annunciato, l'importante è che lui sia elevato. Non ha importanza noi, non siamo noi importanti, è Cristo importante. Tu riconosci un buon ministro di Dio quando mette Cristo davanti, quando ha interesse per Cristo. E poi aggiunge di Timoteo: voi sapete che egli ha dato buona prova di sé, ha dato buona prova di sé, ha dato una buona testimonianza, ha dimostrato non solo con le parole, ma con i fatti, ha dimostrato l'amore, il servizio, il sacrificio per la causa di Cristo. Infatti aggiunge: poiché ha servito con me la causa del Vangelo. Un buon rappresentante di Cristo dà buona prova di sé, da una buona testimonianza. Ora qui, quando l'Apostolo Paolo parla di cattivi operai, li chiama cani. Quindi se da una parte abbiamo chi ha amore per la Chiesa, dall'altra abbiamo dei cattivi rappresentanti che vengono nominati cani. Quando diciamo cani, non pensiamo ai nostri amici fedeli a quattro zampe, addomesticati, puliti, che rispondono ai comandi, che portiamo a guinzaglio, che educhiamo, che ci fanno compagnia. Pensate ai cani dell'epoca dell'Apostolo Paolo, e forse non avete ben presente come fossero i cani all'epoca, ma erano randagi, erano malandati, erano sempre lì in agguato per cercare di derubare, di prendere il cibo a qualcuno, a qualche contadino, a qualche allevatore. Erano lì che non erano ubbidienti, non erano sottomessi, erano sciolti e andavano ovunque, sporchi, portatori di malattie. Questo è quello che l'Apostolo Paolo vuole dire. Cattivi rappresentanti dell'Evangelo sono dei cani. E ironicamente l'Apostolo Paolo utilizza questo termine perché i giudei chiamavano cani i gentili. Cioè coloro che erano nella legge mosaica chiamavano cani tutti coloro che non seguivano la legge mosaica e non facevano parte del popolo di Israele. E visto che l'Apostolo Paolo sta proprio puntando il dito ai giudaizzanti, cioè questi giudei che hanno sentito l'Evangelo e ne hanno fatto un bel miscuglio, li sta chiamando ora a loro cani, ironicamente, loro che chiamano cani gentili. Ora l'Apostolo Paolo dice sono cani loro perché non hanno assimilato la verità dell'Evangelo. Quindi sono selvaggi, sono opportunisti, sono dei ladri e ci sono tuttora. Mutilati, dice l'Apostolo Paolo, si fanno mutilare. Usa questo termine ed è aspro l'Apostolo Paolo, perché vuole che chi legge ancora noi oggi comprenda molto bene che la circoncisione è stata per un tempo. Aveva un valore, un carattere, un aspetto spirituale per un tempo. Dopo quel tempo, per la venuta di Cristo, se hai rivelazione del valore della grazia e del sacrificio di Cristo sulla croce, quell'atto diventa solo un mutilarsi. Un mutilarsi che nella legge mosaica addirittura era condannata come cosa. Non potevi inciderti la carne, non potevi mutilarti, non potevi trattar male il tuo corpo. E quindi l'Apostolo Paolo, sempre puntando il dito ai giudaizzanti, cioè questi giudei che si sono convertiti parzialmente a Dio, dice: sono mutilati. Fanno quello che fanno religiosamente, hanno cura per l'aspetto esteriore, ma non hanno un cambiamento del cuore interiore. Stiamo attenti, i cattivi rappresentanti di Cristo sono ricchi di mosse, fatemi dire così, sono mossisti. Fanno vedere, hanno la parvenza di essere pii, religiosi, assidui, più disciplinati di tutti gli altri, più spirituali di tutti gli altri, appartati, digiuni, ritiri, quant'altro, però poi nella concretezza il loro cuore è lontano da Dio, perché fanno tutto questo come atto esteriore e Dio giudica, Gesù giudica tutto ciò che è un atto esteriore e religioso e che non coinvolge il cuore. In Matteo 15 Gesù dirà che condannando i farisei e gli scribi, dirà: loro mi adorano con la bocca. Vi ricordate quel verso? Continuate per me: mi adorano con la bocca, ma il loro cuore è lontano da me. Dio è interessato che il nostro cuore sia vicino a Lui e che di conseguenza la nostra bocca possa adorare. Dio non gradisce il tuo essere qui presente in chiesa, quale atto forzato e fisico, dove dimostri qualcosa di esteriore a te stesso o agli altri, ma il tuo cuore non è per niente coinvolto e sei da qualche altra parte. C'è qualcuno che è da un'altra parte in questo momento. Ritorna. Ritorna qui ora, ritorna dal Padre. Non serve venire in quello che è un edificio che si può nominare chiesa senza essere chiesa. Sii chiesa con la scelta di cuore. È nobile quello che tu hai fatto questa mattina nel venire qui, ma è un atto fisico. Quello che Gesù desidera è che il tuo cuore appartenga a Lui. Che nel leggere la parola, quello che stiamo facendo insieme, tu possa assimilarla, non essere lì a giudizio del predicatore, ascoltare, valutare, rimanere disconnesso, ma coinvolgerti e dire: Spirito Santo, tu hai una parola per me, come vi ho fatto confessare all'inizio di questo messaggio. Tu hai una parola per me, cosa vuoi dirmi questa mattina? Perché io sono in ascolto, sono qui tua serva, sono qui tuo servo. Parlami, tocca il mio cuore, perché non voglio essere un religioso che va in chiesa la domenica mattina. Io voglio essere un tuo discepolo la cui vita è arresa a te ed è per il tuo servizio. Amen. Buoni rappresentanti di Cristo non sono i mutilati, sono coloro che hanno interesse per Cristo, coloro che mettono Cristo al centro, coloro che considerano la croce, considerano il fatto che non è per i loro meriti e per i loro atti esteriori che hanno salvezza, ma per i meriti di Cristo che ha portato ogni nostro peccato sulla croce. Amen. Posso sentire un amen un po' più convinto? Amen. Siamo qui riuniti perché crediamo che l'atto ultimo che ci dà salvezza è l'atto di Cristo Gesù sulla croce. È per il suo sacrificio che noi siamo stati salvati. È per i meriti che spettano a Lui che noi beneficiamo di ogni benedizione, non per i nostri meriti, non per la nostra condotta, non per i nostri atti esteriori. Quelli vengono dopo come conseguenza, perché come non potremmo servire colui che ci ha servito? E come non potremmo arrendere a Lui la nostra vita, Lui che l'ha data per noi? Anche qua ci stava un amen più forte. Buoni rappresentanti di Dio danno una buona prova di sé, buona testimonianza. Cattivi rappresentanti sono cattivi operai. Cioè operai, c'è questo termine, operai. Sono cattivi operai perché operano male. Operano male. E di questi l'apostolo Paolo dice una cosa importante, un comando, dice: guardatevi, guardatevi. È un termine forte, significa siate avveduti, non lasciatevi abbagliare, abbiate un senso critico. Io credo che la Chiesa debba essere incoraggiata ad avere un senso critico, e il senso critico lo si sviluppa con una conoscenza della parola di Dio e avendo prima e più di tutto come sommo pastore Cristo Gesù. Quando tu hai una buona conoscenza, per questo noi insegniamo la parola, per questo non siamo qui a fare discorsi motivazionali e parlare sempre di belle cose che possano stimolare e attirare e attrarre le folle senza portarle a una sostanza. No, noi predichiamo la parola, tutta la parola, anche questi versi. Perché? Perché questo ci permette di poi avere un equilibrio nella nostra vita, perché i cattivi operai vengono. E anche buoni operai a volte possono cadere nella disgrazia di diventare cattivi operai. Ed è un peccato, è un rammarico degli ultimi mesi, anche perché, cari ministri, si è visto quanto fossero in quest'ultimo periodo provati, giudicati e sono caduti moralmente, persone che conosciamo. E vedere questi ministri che cadono in disgrazia è molto triste, molto pesante a livello spirituale, emotivo. Non so se chi lo sta vivendo con me, però se tu hai conoscenza di qualche ministro che è caduto in un atto immorale, allora tu ne sei coinvolto a livello proprio personale e ti fa male. Però la cosa più triste ancora di questo è vedere il popolo di Dio smarrirsi, e quindi a centinaia, che dico a migliaia, perdersi, deviarsi, allontanarsi dalla parola. Perché? Perché un buon operaio è diventato un cattivo operaio e quindi ha fatto scadere il valore della parola di Dio. Ma la parola di Dio non può scadere. La parola di Dio è sempre perfetta, è sempre valida, è la giusta bussola, è la nostra luce, anche quando gli uomini falliscono. Cristo non fallisce mai. Anche quando gli uomini non rappresentano bene Cristo, questo non significa che la via di Cristo non sia perfetta. Segui Cristo, segui la sua parola, leggi la parola, studia la parola, Medita la parola, assimila la parola in modo tale che non sei preso da ciò che è emotivo, da ciò che può essere bello da ascoltare, bello da vivere. In questo tempo c'è una sfida maggiore che la Chiesa vive e può essere, assieme ad una sfida, una grande benedizione dell'utilizzo di internet. Sapete, ci sono centinaia, se non migliaia di persone che ascolteranno questo messaggio in internet, perché noi abbiamo la possibilità di metterlo lì in internet e tante persone possono ascoltare l'insegnamento della parola. Purtroppo in internet ci si mette chiunque e chiunque può affibbiarsi il titolo di pastore, di evangelista, di profeta, di apostolo, e ce ne sono tanti, troppi direi, che si mettono lì in internet e insegnano e hanno un carisma nell'insegnamento, una capacità di parlare, una capacità di creare attrattiva in coloro che ascoltano, ma non sono stabili nella parola, non analizzano la parola per quello che essa dice, manipolano la parola e la usano a proprio piacimento per l'interesse che hanno, non per Cristo, ma per se stessi. Attenti ai cattivi operai, attenti ai cattivi rappresentanti di Cristo. Non lo dico io, lo dice la parola di Dio. L'apostolo Paolo poi aggiunge e dice: perché i veri circoncisi siamo noi, noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio. Si sta unendo ai filippesi che erano gentili convertiti, e qui dice i veri circoncisi, non sta dicendo io che sono un vero circonciso, no, dice i veri circoncisi, cioè coloro che veramente sono appartati per Dio, hanno vissuto un'adozione spirituale, non sono quelli che si fanno mutilare, sta dicendo l'apostolo Paolo, ma siamo noi, e aggiunge, che ci vantiamo di Cristo Gesù, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Riconosciamo, per questo è forte, a volte è duro cantare il canto sono un peccatore, io sono un peccatore, però ci fa bene confessarlo, ci fa bene dire attenzione, sì, sono stato battezzato, ho vissuto la nuova nascita, sono santificato in Cristo Gesù, ma posso riconoscere che in me c'è un cuore che è malato, che ha costante bisogno di santificarsi in Cristo. Io sono un peccatore, ma la mia speranza sta in Cristo Gesù che mi riscatta e mi fa un suo santificato. Non sono santificato per i miei meriti, sono santificato per Cristo Gesù che stamattina onoriamo con la cena del Signore. E io vorrei fermarmi un attimo dal continuare a predicare, insegnare su questi versi, andremo avanti, ma vorrei che noi ci vantassimo di Cristo. Amen. Vantati di Cristo. Vantati di Cristo. Lo dico ancora una volta, vantati di Cristo questa mattina, perché nella tua sporcizia, nei tuoi peccati, nel tuo essere indegno, ogni cosa è stata pagata sulla croce e Lui ti dà una via d'uscita, Lui ti dà una via nuova, l'opportunità di afferrare la santità. Questo è celebrare la cena del Signore, riconoscere perché Lui è morto, perché è stato martoriato, torturato, la sua carne è stata trafitta, perché ha perso così tanto sangue, ha versato il suo sangue per lavare i nostri cuori dai nostri peccati. E quindi qual è il senso della cena del Signore? Non mangiare del pane, bere del vino, fare un atto religioso, come siamo stati abituati a vedere da quando eravamo piccoli in chiesa, che se lo fai è qualcosa che ti fa del bene. No, non è l'atto in sé per sé, ma quello che avviene nella consapevolezza del simbolo del pane, del simbolo del vino, di quello che Gesù ha fatto per te, e il vantarti, dire io sono orgoglioso che oggi posso mettere a tacere la voce del nemico che viene per giudicarmi, che viene per additarmi, per dire non sono degno, e posso mostrare la croce e dire io sono un peccatore salvato per grazia e i miei peccati sono perdonati e li confesso a quell'unico Dio che può lavarli, il cui nome è Cristo Gesù. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare e vivere la cena del Signore. Padre, io benedico questo tempo, benedico il pane, benedico il vino, ma benedico in modo particolare questa parentesi di questo incontro, che è una parentesi di intimità con te. Io prego che ogni peccato sia confessato, nulla è nascosto a te. Perdona i peccati di fornicazione, perdona i peccati di adulterio, perdona i peccati di impurità sessuale, perdona, Padre, i peccati di mancanza di perdono, di rabbia, perdona l'amarezza. Padre, ti prego di perdonare le inimicizie. Padre, ti prego di perdonare quelli che sono gli orgogli che sono nei nostri cuori, l'arroganza, il sentirci superiori ad altri, il giudicare. Padre, perdona ogni peccato che ha a che fare con il disonorare la nostra moglie o il nostro marito, il tralasciare la famiglia. Padre, io confesso quelli che possono essere i peccati più comuni, ma io ti prego, Padre, di perdonare l'idolatria, che è così comune, il nostro mettere altre cose prima di te. Vuoi tu perdonarci questa mattina? Vuoi tu perdonare ogni forma di dipendenza dal gioco? Vuoi tu perdonarlo prima di liberarci? Perdonaci. Padre, vuoi tu perdonare chiunque ha un attaccamento per il denaro e fa del denaro il proprio Dio e dipende dal Dio denaro? Dipende dal conto in banca. Io ti prego, Padre, perdona. Perdona questa mattina. E santificaci. Ci vantiamo di te, Cristo, perché senza di te non saremmo nulla, ma in te siamo salvati e santificati. Gloria a te, Gesù. Grazie per la grazia. Grazie per questo accesso che abbiamo al trono di grazia. E possiamo venire in intima comunione con te questa mattina. Benedico questo tempo nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Rimaniamo in preghiera. Se vuoi appartarti nel prendere il pane, il vino, fallo. Se vuoi fermarti con qualcuno, senti il desiderio di pregare per qualcuno, allora fallo. Questo è un tempo di preghiera e di intimità dove riconosciamo il vanto che abbiamo in Cristo Gesù. Alleluia. Voglio rileggere Filippesi 3, i versi che insieme stiamo assimilando questa mattina. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne, benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Vedete, è bellissimo poter predicare su questi versi, soprattutto quando sono parte di una serie. Io sono così contento che stiamo seguendo una serie e non stiamo tralasciando nulla della lettera dei Filippesi. Abbiamo fatto lo stesso per Efesini e continueremo a farlo per altri libri della Bibbia. Però sapete qual è la cosa bella di poter predicare su questi versi? È che stiamo seguendo una lettura insieme, perché sarebbe altrimenti molto difficile predicare su questi versi. Immaginate che fosse una domenica come un'altra, non fossimo parte di una serie e io cominciassi a leggere questi versi, a predicare su di essi. Sicuramente tutti mi guardereste dicendo: ma ce l'ha con qualcuno? Ma deve essere successo qualcosa. Ma a chi si sta riferendo? Invece, grazie a Dio, non mi sto riferendo a nessuno, ma possiamo seguire quello che è la lettura insieme e considerare dei passi che però non dovrebbero mai essere tralasciati. A volte, come pastori, hai difficoltà a prenderli proprio perché non sai come possono essere recepiti. Invece è bello poterlo fare in questa maniera e rendersi conto poi nello studio e nell'analisi di questi versi che sinceramente magari con molta difficoltà avrei predicato altrimenti, e considerare che sono cose molto importanti, perché non è solo l'apostolo Paolo che ci dice queste cose. È molto importante quello che stiamo valutando insieme questa mattina, leggendo, assimilando questa mattina. Non è un messaggio di poco conto, perché vedete, leggete con me, girando la pagina dei vostri appunti, noi leggiamo un lungo discorso che Gesù fa proprio su questi cattivi operai, su coloro che sono altrimenti chiamati anche falsi profeti. E Gesù dice in Matteo capitolo 7, guardate, utilizza le stesse parole, o meglio è Paolo che utilizza le stesse parole di Gesù, e dice: guardatevi, anche Gesù invita il popolo di Dio ad essere critico, ad avere una maturità tale da saper discernere le giuste influenze, i giusti ministri, i buoni operai. E dice: guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccolgono uva dalle spine o fichi dai rovi. Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero cattivo dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte potenti opere? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Voi tutti operatori di iniquità. Forse può, anche alla luce di quello che ho mostrato prima, la tabella, risultare facile riconoscere dei cattivi operai. Dire: ah, ma è facile, manipolano la parola, si può riconoscere questo. È facile riconoscerli perché non portano una buona testimonianza. È facile riconoscerli perché sono deviati, sono... No, Gesù dice: sono lupi in veste di pecore. Quello che tu vedi sono pecore. Quello che i tuoi occhi, ad un'analisi superficiale, vede sono pecore. Sono figli di Dio, all'apparenza. Sono persone che seguono Cristo all'apparenza, ma dentro, vedete Gesù che dice, dentro sono lupi rapaci. È per questo che non è facile riconoscerli. Ora, con questo messaggio io non voglio invitarci a fare i Sherlock Holmes della situazione, no? Cominciare ad essere lì in analisi su tutto e tutti, mettere sotto, perché poi ogni ministro di Dio ha le sue pecche. Forse una cosa importante da dire è la mancanza di ravvedimento di queste persone, che è il vero male, ciò che è veramente marcio in loro. Però Gesù dice che li riconoscerete dai loro frutti. E poi parla di persone che davanti a Cristo diranno: ma noi abbiamo profetizzato nel tuo nome, scacciato demoni, abbiamo fatto opere potenti. Quindi evidentemente non sono questi i frutti. Eppure, troppo spesso nel popolo di Dio noi crediamo che ogni cosa che è spirituale è necessariamente e proviene necessariamente da Dio. Ma c'è una potenza di errore. Ci sono, in Apocalisse c'è scritto che ci sono demoni che operano opere miracolose. E quindi noi possiamo ritrovarci davanti a persone che operano miracoli, letteralmente. che fanno dei segni miracolosi, e noi dobbiamo riconoscere anche che in quel caso potrebbe esserci una deviazione di percorso. Queste sono persone che hanno la capacità magari di muoversi nel soprannaturale, ma poi presentare la parola di Dio in una maniera diversa, manipolata, e quindi deviare il popolo di Dio. E quindi operano miracoli e dall'altra parte creano codipendenza. E quindi ci sono persone, credenti, che non dipendono più da Cristo perché sono cattivi operai, non puntano a Cristo, puntano a se stessi. E quindi ci sono credenti che poi cominciano ad essere dipendenti da quella persona perché quella persona ha operato un miracolo. Quando gli apostoli operavano miracoli, non volevano nessuna gloria. Si sono stracciati le vesti, un gesto proprio estremo per dire: non va bene così, non si fa così, non potete comportarvi così, non potete riconoscere in noi qualcosa di speciale. Se operiamo miracoli nel nome di Cristo Gesù, date gloria a Lui. Date gloria solo a Lui. Puoi ringraziare per ministri che si lasciano utilizzare da Dio, ma se in te nasce codipendenza da quei ministri, c'è già qualcosa che non va bene. Perché dipendi da quella persona, nomini quella persona, ascolti solo le sue prediche, ascolti quello che dice e prendi per buono tutto, anche quando non tutto è buono. È sbagliato. Non sono questi i frutti. Gesù dice: li riconoscerete dai loro frutti. Ed è bello poter considerare, allora, quali sono i frutti? Quali sono? Se non sono le opere miracolose, se non è un frutto cacciare demoni, se non è un frutto profetizzare, quanti sono deviati dalle parole profetiche perché c'è un ministro che riconosce il tuo passato senza saperlo, o riconosce il tuo futuro senza saperlo, e tu vieni abbagliato da questa conoscenza soprannaturale e dici: deve essere per forza da Dio, e quest'uomo è da Dio, è un angelo sceso in terra. Sì, potrebbe essere un angelo, ma un angelo caduto che vuole deviare il tuo percorso. Quali sono i frutti? Ho tre punti. Non ho tempo di analizzarli e prendere tutte le scritture, però vedete, negli appunti leggete: la parola ci invita a stimare i buoni rappresentanti di Cristo e guardarci invece da chi, punto uno, non rappresenta Cristo nel suo carattere e nel suo operato. Ministri, buoni ministri di Dio hanno il carattere di Cristo, sono mansueti, sono umili. Gesù ha detto: imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. Quando manca la mansuetudine, quando manca l'umiltà, è importante che si accendano delle spie. Non solo un operato che rappresenta Cristo, ma un carattere trasformato nell'immagine di Cristo. Non lo dico io, andatelo a leggere in 1 Timoteo al capitolo 3. C'è scritto così, comincia così, dice: se uno aspira all'incarico di vescovo, aspira a una cosa buona. Se uno aspira all'incarico di vescovo, dice, non al titolo di vescovo, non la posizione, all'incarico, al servizio, al lavoro del vescovo, aspira a una cosa buona. E tu ti aspetteresti, dopo quell'affermazione, è importante quindi che il vescovo sia carismatico, abbia potenza nello Spirito Santo, operi miracoli, guarisca le persone, liberi da demoni. Non c'è nessuna di queste qualità, andatevelo a leggere. Tutte le caratteristiche del buon vescovo hanno a che fare invece con cose che apparentemente sembrano essere estremamente comuni: che sia mite, non litigioso, non dedito al vino, non iracondo, che governi bene la sua famiglia, marito di una sola moglie, che abbia la capacità di insegnare, questo sì, come carisma. Però tutte le altre qualità, umile, sobrio, dignitoso, c'è scritto. Queste tre caratteristiche, una volta quando proprio il Signore mi ha detto: ricerca questo, umile, sobrio, dignitoso. Queste sono le caratteristiche di un buon vescovo, di un buon rappresentante di Cristo. E di cosa ci parla questo? Del carattere di Gesù. Gesù è attratto molto di più dal nostro carattere trasformato che dalle opere che potremmo compiere. Due, insegna in modo disequilibrato, parliamo di degli operai dai quali guardarci, insegna in modo disequilibrato o parziale. I giudaizzanti non è che non insegnavano la parola, solo che stavano insegnando una porzione della parola e in maniera disequilibrata. Quando sentiamo predicare sulla prosperità e sul fatto che Dio possa provvedere a noi, che possa aiutarci finanziariamente, fondamentalmente chi lo fa prende in analisi la parola di Dio e prende dei versi biblici, ma li sta manipolando perché sta mostrando solo una luce della parola. E quando poi i credenti cominciano a credere in un Dio che può solo provvedere a loro, che diventa il genio della lampada, esprimi tre desideri e io te li darò, c'è un disequilibrio totale, perché il Signore è il nostro Signore. Quando siamo nell'abbondanza e quando siamo nella povertà, è l'Apostolo Paolo che lo dice, la povertà è contemplata. Dio vuole che siamo poveri? Dio permette che siamo poveri. E nella povertà ha qualcosa da insegnarci. Cattivi operai insegnano in maniera disequilibrata e parziale. Accentuano parti della Bibbia e non citano assolutamente altre. Ed è per questo che noi leggiamo 1 Cronache, 2 Cronache, leggiamo Lamentazioni, leggiamo Malachia, leggiamo Giobbe. Ce l'abbiamo fatta perché? Perché è importante avere il giusto equilibrio. E quando ti trovi davanti a libri come questi dici forse non ho capito nulla. Ed è proprio quello che è necessario, che arriviamo a ridiscutere tutto e a comprendere equilibratamente chi è Dio. Terzo punto e concludo. Dobbiamo guardarci da chi non punta a Cristo, ma punta a se stesso. Quando quella predica finisce, se tu puoi dire wow Gesù, wow la sua parola, allora il predicatore è stato buono. E io spero che questo sia l'esito di questa predicazione. Se la predicazione finisce e dici wow Mirko Ronchi. Ha perso Mirko, hai perso tu, ha perso il regno, abbiamo perso tutti. Wow Cristo, wow la sua parola. Amen. Possiamo fare un applauso a questo? Wow Cristo, ci vantiamo di Cristo, ci vantiamo della sua parola. Non punta a se stesso, un buon ministro non punta a se stesso. Un cattivo ministro è dammi. Un buon ministro è ti do, ti servo. A conclusione di questo messaggio, io vorrei che alla luce di tutto quello che ci siamo detto, noi considerassimo un ultimo aspetto. La nostra Chiesa ha una chiamata. Noi siamo un popolo di veri adoratori impegnati ad ubbidire al grande comandamento e al grande mandato. Noi siamo impegnati ad ubbidire al grande mandato. La nostra Chiesa non vive, non esiste per intrattenerci la domenica. Noi siamo una Chiesa che è in opera, è una Chiesa che si muove e l'operato della nostra Chiesa è il grande mandato, fare discepoli di Cristo Gesù. L'orgoglio più grosso che possiamo avere in Cristo come Chiesa e far emergere operai, buoni operai. Amen? Questo è il nostro impegno. Quando tu servi suonando, quando tu servi accogliendo, quando tu servi per dare la cena del Signore, quando tu servi dietro per accudire i bambini, farli crescere nella parola, l'obiettivo ultimo, sapete qual è? Fare discepoli. e fare in modo che questi discepoli diventino buoni operai che vanno nella messe per portare luce. Noi siamo un'alleanza, la nostra Chiesa è un'alleanza per far emergere buoni operai, uomini e donne dal carattere di Cristo, che forse non hanno carismi importanti perché Dio non è che li ricerca, che non siano chissà che come persone, ma sono persone normali, persone di ogni giorno, ma il cui cuore è trasformato, il loro carattere è modellato ad essere mansueto, umile, a governare bene la propria famiglia, a non disperdere, a non dividere, a non sparlare, ma ad essere dignitosi, sobri, ad avere una condotta che rappresenta Cristo in questa maniera, portare luce in un mondo di tenebre. Vi invito a leggere un libro, Figlio di una serva, scritto da Christian Nani. Sapete, questo ragazzo è venuto a salvezza, un ragazzo afghano in un mondo buio, in un paese musulmano governato da talebani, è venuto a salvezza perché ha visto la buona condotta di una coppia di operai. Non hanno predicato chissà quale sermone, non hanno operato chissà quale miracolo, hanno avuto solo una buona condotta che si addice a Cristo, e in questa maniera lui, vedendola, ha potuto essere toccato nel cuore e a convincersi del fatto che un Dio misericordioso c'è. Vi riconosceranno per l'amore che avete gli uni verso gli altri. Cose, vedete, semplici ma molto profonde. Noi vogliamo essere una Chiesa che cresce nello sviluppare caratteri trasformati da Cristo. Vogliamo essere una Chiesa alleata che prepara, discepola buoni operai che vanno nella messe. Per fare cosa? Fondare nuove chiese, salvare anime, aprire nuovi ministeri. Ci crediamo? Siete entusiasti come me per queste cose? Perché le abbiamo già viste in passato e sappiamo che Dio ha ancora in serbo tutto questo per noi nel presente e nel futuro. Ed è per questo che noi dobbiamo puntare a ciò che è buono e ciò che è gradito a Dio. Vogliamo alzarci in piedi? Forse alla luce di questo messaggio, la tua scelta, perché è sempre importante prendere una scelta dopo un messaggio, è dire: Signore, io voglio essere un buon operaio tuo. Un buon operaio tuo. Forse alla luce di questo messaggio hai bisogno di guarigione per quello che riconosci essere state delle influenze nella tua vita che non hanno dato equilibrio nella tua conoscenza di Dio e ti hanno manipolato, ti hanno deviato e hai bisogno di ritrovare equilibrio nella parola di Dio. Allora la tua preghiera può essere: Signore, dammi un buon equilibrio e dammi dei buoni esempi, dei buoni modelli da poter seguire nella Chiesa. O forse il Signore questa mattina ti sta chiedendo di allearti alla Chiesa e dire: Signore, io prego affinché facendo parte di questa Chiesa io possa essere attivo nel far suscitare buoni operai nella Chiesa pieno Vangelo. Qualsiasi sia la tua richiesta in preghiera, vogliamo chiudere i nostri occhi e se stai facendo una decisione questa mattina, ti chiedo di alzare le tue mani. Voglio pregare per ogni decisione che viene presa questa mattina. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie per la tua parola, Padre. Grazie Cristo Gesù per la tua opera. Grazie Gesù per come tu ci hai messo in guardia e noi in guardia vogliamo essere. Vogliamo essere stabili nella verità. Non vogliamo lasciarci attrarre da ciò che è apparente e appariscente. Non vogliamo lasciarci attrarre da ciò che è parziale. Vogliamo l'intera tua parola. Vogliamo essere figli maturi che sono ben orientati nella verità che tu hai per noi, la tua parola, l'Evangelo nel quale noi vogliamo vivere. Padre, io ti prego affinché possiamo essere una Chiesa che crede, che prega e che richiama il soprannaturale, ma anche una Chiesa che al tempo stesso riconosce e discerne qual è il tuo cuore, qual è il tuo desiderio nel soprannaturale. Io prego, Padre, che noi possiamo essere una chiesa nel mezzo della quale nascono e crescono altri operai. Noi preghiamo per la salvezza di anime perdute, noi preghiamo che queste possano diventare figli e figlie tue che crescono nella conoscenza della tua parola e di cui poi tu ti servi fino all'estremità della terra per portare luce dove luce non c'è. Nel nome di Gesù io prego che in qualsiasi parte del messaggio tu hai parlato ai nostri cuori, che tu possa a partire da oggi darci un percorso stabile nella direzione e guida dello Spirito Santo che ci hai mostrato questa mattina. A te la gloria e l'onore, Gesù. Amen. Amen. Continuiamo a stare in preghiera, lodiamo il Signore insieme.